giardin, fior arancia limone, e più bella uaglione, tutta bonna grio. Vorria passar la vita la burina da randella insieme con te. Ito triste puntiera, cui partita momento, ia te venna tu riente, capruado viace, oggi viste giardir fior arancia limone, e più bella uaglione che sta bonna mi ardo. Grandel insieme con te.